Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Cari radioascoltatori, buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Oggi torniamo ad occuparci del Lametino, di Lamezia Terme, capitale mancata, come dico sempre, della Calabria. Lo abbiamo fatto anche recentemente, quando abbiamo dato voce con Radio 24 a Trame, questa rassegna dei libri inchiesta sulle mafie che si è svolta appunto a Lamezia Terme, e lo abbiamo fatto con questa trasmissione intervistando anche il capo della procura, Salvatore Vitello. Ma accade che questo è un territorio però tormentato, non abbiamo fatto in tempo a raccontare con Vitello il tasso enorme di permeabilità mafiosa di questa città, che negli ultimi tempi sembra essersi scatenato l'ira di Dio. Morti nelle strade, molti dei quali probabilmente riconducibili a mano mafiosa. Però noi vogliamo cercare di capirne qualcosa di più attraverso la voce del commissario di Lamezia Terme, Antonio Borelli. Buongiorno commissario. Buongiorno Tergalullo. Che cosa sta accadendo a Lamezia Terme? Perché si spara così tanto dopo anni di pax mafiosa? Si spara così tanto perché si sono rotti degli equilibri. La faida che insanguina Lamezia Terme è una faida da lunga 20 anni. Dopo qualche anno di pax mafiosa, come la definiva lei, si sono rotti degli equilibri e abbiamo avuto nell'ultimo mese due omicidi di chiaro stampo mafioso, padre e figlio, ecco. La famiglia Torcasio e la famiglia perdente. Allora, ecco, possiamo quindi dire che in questa geografia, in questa mappa, in questo momento la famiglia perdente è Torcasio. Se così è, qual è la famiglia vincente? Dalle indagini in corso, ma ripeto, si tratta di indagini lunghe quasi 20 anni, loro hanno avuto una faida incontro la famiglia Giampà. Che riflessi ha questo sulla popolazione e sull'economia lamettina, dottor Borelli? Sulla popolazione chiaramente crea un clima di paura, perché soprattutto l'ultimo morto è venuto in pieno centro alle 8:40 di mattina. Poi è stato ucciso anche un ragazzo della famiglia Torcasio che aveva solo 20 anni. Certo, il che vuol dire che si cominciano proprio a far fuori le nuove leve. Le nuove leve, anche perché delle vecchie leve non è rimasto nessuno. In carcere molti sono già morti. Certo. Diciamo è un massacro. Da questo punto io lo definisco così, è un gioco al massacro che provoca però nella popolazione chiaramente un senso di insicurezza. Ecco, ma quali sono appunto economicamente, parliamo di economia criminale, gli interessi in gioco che loro in questo momento si stanno contendendo? Guardi, non posso approfondire molto perché chiaramente lei capirà, ci sono dei processi. Certo, per carità di Dio, certo, no, certo. Crediamo anche meno, cioè le cosche calabresi da sempre vogliono avere un controllo del territorio anche minuto, anche l'estorsione al singolo bar, alla pasticceria, al piccolo negozio, ha un senso, perché significa che quella zona è una zona controllata da una famiglia. Ecco, quindi non la grande economia criminale o non solo quella, ma proprio il controllo spicciolo del territorio. Sì, anche un piccolo appalto, anche un controllo criminale su una piccola attività può far nascere delle dispute. Ecco, parliamo di voi, parliamo del vostro commissariato. Che cosa state facendo? Siete tanti, siete pochi? Lanci, come dire, utilizzi questi minuti finali per raccontare, soprattutto raccontare di chi e di cosa avete bisogno. Noi siamo al centro della Calabria, in una città che ha quasi 80.000 abitanti. Il commissariato è un commissariato di punta, che conta quasi 100 persone, l'eravamo un po' di più qualche tempo fa, ma dobbiamo ricordare che siamo in periodo di vacche magre, quindi esatto. Chiaramente per una percentuale di uomini che vanno in pensione non vengono rimpiazzati. Noi certo, con i nostri mezzi, diciamo, riusciamo anche ad avere risultati positivi, perché riusciamo a buttare il cuore oltre l'ostacolo, tant'è vero che il 5 giugno è stato ucciso in un agguato mafioso una persona, nel giro di 15 giorni siamo riusciti ad assicurare alla giustizia i tre colpevoli, gli esecutori materiali e i mandanti. Colgo l'occasione anche per ringraziare il procuratore della Repubblica di Lamezia Terme, dottore Vitello, e i suoi sostituti, con cui lavoriamo in strettissima sinergia e con cui veramente passiamo giorno e notte assieme per cercare di risolvere questi casi di omicidio. Mi fa molto piacere che lei dica questo, perché so della sua capacità, della sua professionalità, so che il commissariato di Lamezia Terme effettivamente è una terra di frontiera, quindi io colgo l'occasione per augurarle buon lavoro e ringraziarla per la gentilezza, e dico ai nostri radioascoltatori che abbiamo una mail a disposizione, che è sottotiro@radio24.it, per raccontare le vostre storie che poi noi riprenderemo in radio. Ricordo che c'è il mio blog Guardie o Ladri, ho scritto moltissimi articoli sulla Lamezia Terme, basta andarli a vedere in archivio, così se volete approfondire l'argomento potrete farlo. Roberto Galullo ringrazia Valeria Bernardi in regia e Laura Faggini in studio e vi auguro una buona giornata.